in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. La voce un po' giù perché insomma alla fine il raffreddore l'ho preso anch'io, quindi scusatemi, ma insomma spero che sia una cosa il più passeggera possibile. Iniziamo dal Sole 24 Ore, che oggi ha un approfondimento un po' su quello che succederà domani, perché domani aprono le borse, sarà il primo giorno in cui veramente Trump è il presidente americano, è alla Casa Bianca come presidente, non come presidente eletto. E quindi il titolo, con un'analisi di Moira Longo che poi trovate a pagina 3, le borse dei record alla prova di Trump, perché sapete che gennaio è stato un mese record per tutte le borse, quella americana e quelle europee. Molto interessante per tutti, per noi italiani in questo caso, quello che trovate a pagina 4, che sono tutte le novità del 7.30, dai lavori in casa ai figli più sconti nel nuovo 7.30. L'analisi per quanto riguarda invece la politica estera del presidente americano, su cui sappiamo per ora solo alcune cose e vedremo poi come si comporterà davvero, è di Alberto Negri, il presidente la trappola del Medio Oriente, la trovate poi a pagina 2. La prima pagina del Corriere della Sera, come quella di quasi tutti i quotidiani, è dedicata al titolo di prima pagina, il principale titolo di prima pagina, alla tragedia dell'hotel Rigopiano in Abruzzo, dove titola il Corriere della Sera 58 ore sotto un tetto di ghiaccio. All'interno naturalmente moltissimi tentativi di raccolte di testimonianze sia sul luogo della tragedia, quindi soprattutto tra i soccorritori, che poi dove si stanno raccogliendo i familiari delle vittime. La fotonotizia però è dedicata alla marcia che c'è stata ieri a Washington, ma anche in altre città degli Stati Uniti e in altre città del mondo. Il titolo di Giuseppe Sarcina, dell'articolo di Giuseppe Sarcina, poi trovate tutta la cronaca alle pagine 12 e 13, è "In un fiume rosa sfida Trump", perché queste marce erano in realtà marce soprattutto di donne, aperte alle donne, anche se poi naturalmente c'erano anche degli uomini. Qui trovate tantissimi commenti. Mi ha colpito negativamente un commento del direttore del giornale Alessandro Sallusti, che poi vi leggerò in parte, perché ha criticato aspramente questa marcia, che in realtà, per chi ha visto le immagini alla televisione, era sicuramente una cosa che sicuramente può far riflettere. Poi vedremo anche qui se è un fuoco di paglia, una reazione, e tutti aspettiamo gli atti concreti di Trump prima di criticarlo appunto su quello che fa, più che su quello che annuncia. E intanto però appunto c'è stata questa marcia. La foto è molto simile per la Repubblica, mezzo milione a Washington, marcia in tutto il mondo, l'onda rosa in piazza contro Trump, e c'è tra l'altro un richiamo in prima pagina a un'intervista che Papa Francesco ha dato a El País, di cui poi leggeremo alcune parti. El País ha un accordo con la Repubblica, e quindi la Repubblica può pubblicare appunto questa intervista, e dopo vedremo una dei virgolettati più forti che Repubblica mette in prima pagina è: dal populismo è nato Hitler, questo ha detto Papa Francesco. Il commento però è di Vittorio Zucconi: senza le donne non si governa. Naturalmente in prima pagina molto spazio anche ai due fatti di cronaca, da una parte naturalmente quello dell'hotel in Abruzzo, quelle famiglie spezzate dalla valanga, trovate appunto tutta la cronaca, l'avete sentita anche nei GR, e poi l'altro fatto di cronaca gravissimo, qui in questo caso ricordiamo, in Abruzzo i dispersi sono ancora 23 dell'albergo, e invece sono già 16 i morti accertati nella tragedia del bus incendiato sulla 4. Era un bus che riportava a casa dei ragazzi ungheresi. La Stampa: salvi mangiando la neve, questo è un virgolettato perché è il racconto dei sopravvissuti, queste persone che sono rimaste sotto le macerie, e poi spiegano gli esperti un po' come in un igloo, sono sopravvissuti 2 giorni e 2 notti al gelo sotto le macerie mangiando appunto la neve. La fotonotizia in questo caso però è dedicata al rogo, vi dicevo, dell'autobus, all'incidente che è avvenuto vicino a Verona. Sono, come vi dicevo, 16 i morti, e questa foto impressionante della carcassa dell'autobus completamente bruciato, quindi restano proprio soltanto alcune parti del pullman. In prima pagina anche un richiamo a una conversazione che poi trovate a pagina 24 e 25, perché Massimo Gramellini lascia La Stampa, e quindi lascia anche il Buongiorno, la sua rubrica quotidiana, lascia La Stampa per andare al Corriere, e il Buongiorno però resta alla Stampa, lo scriverà d'ora in poi Mattia Feltri. E quindi c'è una conversazione tra questi due giornalisti che con tanti ricordi, tante considerazioni sul giornalismo, sul ruolo del giornalismo, degli editorialisti. E poi sulla stampa troviamo anche Roberto Saviano, che ci spiega poi a pagina 23 quando vince il giornalismo di servizio. Quindi Roberto Saviano, che resta alla Repubblica, suppongo, però si esercita anche sulla stampa, poi vedremo, leggeremo una piccola parte del suo intervento. Avvenire, Trump è di parola, subito meno salute. Questo è un titolo che si deve al fatto che il primo giorno del presidente alla Casa Bianca, perché la cerimonia di insediamento è stata venerdì a Washington, e poi ieri c'è stata la marcia, ma è anche stato il primo giorno di Trump, appunto, alla Casa Bianca. E una delle primissime, dei primissimi atti del neopresidente è la limitazione promessa in campagna elettorale della cosiddetta Obama Care, cioè della riforma sanitaria voluta da Barack Obama, e che è stata faticosamente portata avanti negli 8 anni di presidenza. La fotonotizia però è dedicata all'hotel di Rigopiano, altri 4 in salvo, ma si scava ancora. Il Messaggero, un titolo molto simile a quello della Stampa: ho bevuto ghiaccio per vivere. Il riferimento è alla testimonianza di una delle sopravvissute, e che racconta, e veramente cercare di immaginare questi 2 giorni è un esercizio difficilissimo. E lei cerca di, appunto, di raccontare, per esempio, dice: oltre ad aver mangiato neve e ghiaccio, ci abbracciavamo a vicenda per non morire di freddo. La fotonotizia, come per Corriere Repubblica, è dedicata a quella che viene definita la marcia delle donne, con moltissimi commenti poi alle pagine 10 e 11. Il consueto intervento della domenica sul Messaggero di Romano Prodi: il nuovo corso americano, un'occasione per l'Europa. Poi sapete che di Romano Prodi trovate anche su tutti i giornali le dichiarazioni fatte ieri, dove si è detto fiducioso che l'esperienza dell'Ulivo, cioè quella grande coalizione del centro-sinistra, potrebbe essere ripetibile. Il giornale: hanno tagliato i fondi alla protezione civile. Questa notizia sconcertante, in effetti, che negli ultimi mesi sono stati sforbiciati 71 milioni, e il giornale aggiunge: così Renzi ha finanziato le mance elettorali. Il fatto di cronaca: gli estratti vivi dall'hotel Rigopiano, e naturalmente la dichiarazione dei soccorritori, che a questo punto c'è poco tempo. Ma vi dicevo, il commento a quella che Alessandro Sallusti definisce la marcia femminista, e naturalmente femminista non si capisce bene perché, è sempre un aggettivo in accezione negativa, e il titolo: Le donne di Donald e quelle di sinistra. Quindi quelle di sinistra non avrebbero mai potuto votare Donald Trump, secondo Alessandro Sallusti, e viceversa. E vi leggo l'ultima parte, anche se poi ci sono altri servizi alle pagine 8 e 9, ma l'editoriale di Alessandro Sallusti inizia e finisce in prima pagina. Tra l'altro pieno, insomma, ho contato almeno 3 parolacce, perché questo ormai è l'andazzo di alcuni articoli, non soltanto del giornale, cioè di infarcirli proprio di parole che non so, non ho un altro sinonimo. Sono parolacce come sputtanamento e via dicendo. Alessandro Sallusti inizia così il suo editoriale: ieri in molte città americane di mezzo mondo migliaia di donne sono scese in piazza contro il presidente Trump. Dicono di voler difendere i diritti delle donne, anche se non è chiaro quale sia la minaccia. Prepariamoci. Da oggi, e chissà per quanto tempo, di queste marce civili ne vedremo ovunque a giorni alterni, perché la sinistra globale rode da matti, testuale, per aver perso in malo modo il controllo della Casa Bianca, per di più a favore di uno come Trump. Ricordo qui, anche perché ho sentito Alessandro Sallusti alla televisione l'altro giorno, che il voto popolare, per quanto naturalmente poi il sistema elettorale americano sia diverso dal nostro, Hillary Clinton ha avuto quasi 3 milioni di voti in più rispetto a Trump, quindi perdere in malo modo non so bene che cosa significhi, anche perché purtroppo, perché non è un bene per nessuno, l'America in questo momento è veramente divisa, perché appunto è stata una elezione dove lo scarto non è stato dei grandi voti elettorali, non è stato così alto, e soprattutto c'è appunto questa contraddizione tra il voto popolare e invece poi i voti dei grandi elettori, che hanno legittimamente e democraticamente dichiarato la vittoria di Trump. L'ultima parte dell'editoriale di Alessandro Sallusti: Trump ha detto chiaramente di volersi occupare quasi esclusivamente della rinascita americana e che la sinistra in tutto il mondo vorrà occuparsi a tempo pieno di lui, imprevisto della storia che scombussola i piani dei salotti buoni e smaschera le ipocrisie del sistema. Attenzione, l'amata Clinton le donne le ha umiliate, Trump almeno 3, tante ne ha sposate, le ha rese miliardarie. E quindi, vabbè, libero, perché la protezione civile protegge solo la politica? È una inchiesta molto interessante che poi trovate a pagina 2 sulle cause del cattivo funzionamento, perché purtroppo sicuramente, anche se forse è vero che questo è il momento di concentrarsi esclusivamente sui soccorsi, mettere tutte le energie nel dare i soccorsi più efficaci possibili a tutte le persone che sono colpite o dai disagi legati alle nevicate eccezionali o di nuovo alle scosse di terremoto, però è anche vero che bisogna capire che cosa non ha funzionato. E in questo caso a Libero parla il braccio destro di Bertolaso, che è l'ex capo della protezione civile, Agostino Miozzo, che dice: eravamo i migliori al mondo, siamo stati depotenziati per vendetta e imbrigliati dalla burocrazia. Ha iniziato Monti, poi tutti gli altri, quindi un j'accuse molto duro agli ultimi governi. Prima di una breve pausa vi segnalo la fotonotizia di Libero, che dà conto della manifestazione che c'è stata ieri a Coblenza in Germania con alcuni esponenti dei partiti di centrodestra come Marine Le Pen, Matteo Salvini, gli anti-euro uniti. Dopo Trump tocca a noi. Ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo tra pochi minuti. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e all'ascoltatore che dice che commentare negativamente l'uso delle parolacce è un semplice moralismo. No, io non penso questo, mi viene in mente solo quel breviario, forse lo ricorderete, di Gianfranco Ravasi, dove diceva, era una citazione dal Talmud: stai attento ai tuoi pensieri perché diventano parole, stai attento alle tue parole perché diventano azioni. Ecco, tutto qua. Penso che sarebbe una dei nostri doveri come giornalisti mantenere una certa sobrietà di linguaggio, evitare appunto le parolacce. A proposito sempre della vicenda di Trump, l'Unità, il giorno dello strazio, in realtà il titolo principale è dedicato naturalmente alla tragedia dell'hotel di Rigopiano. La fotonotizia però anche in questo caso è la marcia delle donne, che secondo l'Unità addirittura ha raccolto non 500.000 persone come dicono gli altri giornali a Washington, ma 2 milioni di donne contro il Presidente degli Stati Uniti. E qui c'è il solito consueto intervento della domenica di Walter Veltroni, che dell'Unità è stato direttore. Il consueto intervento della domenica, anche lui si esercita su Trump e fa una cosa che i giornalisti non dovrebbero fare, cioè si autocita, cita le parole che a gennaio aveva scritto su queste colonne, naturalmente contro Trump, perché in questo Sallusti ha sicuramente ragione, come buona parte della sinistra o dei commentatori identificati con il centro-sinistra, e molti avevano previsto che comunque Trump sarebbe stato sconfitto, l'avevano duramente criticato. Adesso tutti vediamo un po' che cosa succederà veramente concretamente mano a mano che Donald Trump si insedia e avvia le sue prime mosse concrete. Vi ricordo che comunque l'Unità, e lo ricorda proprio l'Unità sulla prima pagina, è a rischio chiusura, mancano 10 giorni a quel mercoledì 1 febbraio in cui l'assemblea dei soci dell'Unità deciderà la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione. A pagina 10 dell'Unità trovate le lettere dei lettori che quasi tutte, almeno quelle che si sceglie di pubblicare, naturalmente sperano, esprimono la speranza che il quotidiano non chiuda. Il manifesto Pink Panthers, questo è il titolo, e la storia è, la fotonotizia è appunto sempre di questa marcia che c'è stata a Washington. È molto divertente questa cosa che è un po' il simbolo, gli americani sono molto bravi in questo secondo me, fa anche un po' parte del marketing di una manifestazione. Questa è caratterizzata da questi berretti rosa, da cui il titolo del manifesto, con berretti con le orecchie, il titolo del manifesto: la marcia delle donne invade Washington. Un corteo storico lancia la sfida a Trump nel suo primo giorno alla Casa Bianca. Però il titolo principale, quello proprio sotto alla testata, è dedicata a quello che sta succedendo nel centro Italia. Pensate che in questo momento sono ancora 100.000 le persone senza luce, e sono senza luce da una settimana. Slavine e blackout, e poi naturalmente la cronaca da Rigopiano, dove si continua, come abbiamo detto, a scavare. Il Fatto Quotidiano titola così: usano persino i terremotati pur di arrivare al vitalizio. Qual è il senso di questo titolo? Voi sapete che il 17 settembre è la data che sancisce la garanzia per tutti i parlamentari di questa legislatura di ricevere, quando avranno compiuto 60 anni, la pensione. Se invece si votasse prima, i parlamentari di prima nomina non avrebbero diritto a questa pensione, da qui le numerose illazioni e ipotesi che comunque si voterà dopo quella data. E ieri, sottolinea il Fatto, il governo Gentiloni e il presidente del Senato Grasso hanno detto che, appunto, siccome c'è questa emergenza, diventa meno probabile votare prima dell'estate. E da qui il titolo del Fatto Quotidiano. E poi un'altra notizia, quelle veramente fanno molto riflettere, vi dicevo, bisognerà capire cosa non è andato nei soccorsi e come non si è riusciti a fronteggiare questa emergenza maltempo, che è sicuramente eccezionale, ma che forse si è sottovalutata, così come si sono sottovalutati gli allarmi e i bollettini. E quindi questa storia che ci racconta poi il Fatto Quotidiano: la turbina spazzaneve era ferma dal 6 gennaio. Questa turbina spazzaneve era l'unica che avrebbe potuto raggiungere con una certa velocità, per esempio, l'hotel Rigopiano o altri luoghi isolati per la troppa neve sulle strade, che nemmeno i normali spazzaneve riuscivano a togliere, ma era appunto ferma dal 6 gennaio e nessuno l'aveva riparata. Ma passiamo alle pagine interne dei giornali. Vi dicevo, dal Sole 24 Ore, sul tema del approfondire che cosa non è andato, a pagina 6: mappa sismica bloccata, bonus ancora fermo. I ritardi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rendono inapplicabile la maxi agevolazione. Pensate appunto quali sono poi, perché qui parliamo anche degli interventi post terremoti estivi, quindi si scopre che appunto il bonus è fermo perché c'è questo problema con la burocrazia, di cui parlava anche l'ex braccio destro della protezione di Bertolaso quando era la Protezione Civile, abbiamo visto su Libero. La prima pagina di Impresa e Territorio è molto interessante, perché spesso ci dimentichiamo di questo, o meglio, è una cosa, un fatto abbastanza noto, ma di cui forse non si parla abbastanza, cioè che in Italia c'è troppo trasporto su gomma e poco trasporto su merci. Marco Morino ci racconta, parlando con l'amministratore legato di FS Marco Gosso, svolta nel trasporto merci. Nasce il polo Mercitalia, l'obiettivo è rilanciare un business strutturalmente in perdita, perché appunto si perdono 80 milioni di euro, ma che potenzialmente potrebbe essere, se integrato per esempio anche con la logistica marina dei porti, visto che l'Italia di porti ne ha tanti, potrebbe essere appunto potrebbe dare all'Italia un vantaggio competitivo. Però, come dicevo, su questo siamo molto indietro storicamente. A proposito delle mosse di Trump, vi segnalo a pagina 20 del Sole 24 Ore un intervento di Paul Krugman, che è un premio Nobel per l'economia. Si è sempre dichiarato contro Trump in campagna elettorale, per quel che era emerso sulla sua programma per il rilancio dell'economia. E secondo Krugman non ci sarà in realtà quello che poi altri giornali annunciano, cioè una svolta keynesiana di Trump. Con questo termine in generale si indica una politica di forti investimenti pubblici. Secondo Krugman, che dice: voglio essere meno delicato, non ci sarà nessun programma di investimenti pubblici rilevante per due ragioni. La prima è che i parlamentari repubblicani non hanno nessun interesse a sostenerlo. Sono pienamente determinati a privare milioni di persone dell'assistenza sanitaria e a tagliare le tasse ai più ricchi. Di investimenti pubblici non ne parlano neppure e probabilmente se anche Donald Trump tirasse fuori un piano dettagliato e ne facesse una priorità, loro farebbero orecchie da mercante. E questo appunto lo trovate a pagina 20 del Sole 24 Ore. Cambiamo un po' argomento sul Corriere della Sera. Un'inchiesta, avrete sentito probabilmente di questa notizia dell'estradizione, una delle ultimissime degli ultimissimi fatti dell'era Obama alla Casa Bianca, l'estradizione del re della droga Joaquin Guzman, detto il Chapo, dal Messico agli Stati Uniti. Adesso sì, sapete che nella prima udienza lui si è già dichiarato innocente da tutte le accuse e sarebbe in realtà uno degli uomini più ricchi della terra, caccia al tesoro del Chapo, ex contadino da 14 miliardi. Il Corriere della Sera fa anche una classifica di appunto, uomini con questo tipo di patrimoni addirittura difficilmente immaginabili, appunto 14,4 miliardi per il Chapo, segue Elon Musk, che è un miliardario americano, e poi Rupert Murdoch con i suoi 10,6 miliardi. Una bella intervista sul Corriere della Sera di Aldo Cazzullo a Oscar Farinetti, l'inventore di Italy, che compie 10 anni in questi giorni. Il virgolettato scelto per titolare l'intervista: Italy fu un rischio pazzesco, il Giappone ci deluse, New York segnò la svolta. E sulla questione, su cui è stato molto criticato, sul fatto che comunque gli stipendi dei dipendenti sono bassi, purtroppo sono in linea con quelli del settore, ma siccome Farinetti viene spesso citato come un imprenditore illuminato, su questo dice: cercheremo di fare meglio. Ci fermiamo un attimo però per una seconda pausa per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e sorrido perché c'è un lettore che dice: sentir rosicare una radical chic, che sarei io, una vera godura. Io non ho neanche mai capito cosa significhi radical chic, non sto affatto rosicando, spero che il presidente Trump avvii l'America alla ripresa e che non ci siano incidenti di nessun. Questa è la mia speranza. E siccome meglio delle mie parole valgono, molto di più delle mie parole valgono, secondo me, le parole di Papa Francesco, vi leggo appunto, prima di passare ai supplementi domenicali, una parte di quell'intervista di cui vi dicevo che Papa Francesco ha dato a El País, che la Repubblica traduce a pagina 11. I due giornalisti spagnoli chiedono: proprio in questo momento si sta insediando come presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il mondo è in grande tensione. Qual è il suo atteggiamento? E Papa Francesco risponde: vedere che cosa succede. Non mi piace anticipare gli eventi né giudicare le persone in anticipo. Vedremo quello che fa, vedere come agisce, come lo fa, e lì mi farò un'opinione. Se mi spaventassi o gioissi di ciò che potrebbe accadere, potremmo cadere in una grande imprudenza tra essere profeti di calamità o di buone cose che non verranno, né l'una né l'altra. Si vedrà. Vedremo quello che fa e valuteremo. Sempre le cose concrete. Il cristianesimo o è concreto o non è cristianesimo. Ecco, faccio mie le parole di Papa Francesco, non rosico di niente, specie non della vittoria di Trump. Ma passiamo, come vi dicevo, ai supplementi domenicali. E cominciamo, ho citato prima Gianfranco Ravasi e lo ricito perché anche oggi sulla prima pagina della Domenica il suo breviario, che si intitola Pensare, e parte da alcune parole di Bertolt Brecht. Generale, l'uomo fa di tutto, può volare e può uccidere, ma ha un difetto, può pensare. E scrive Ravasi: ricordo ancora oggi quel giorno di fine novembre 2013 quando presi la parola al Deutsches Theater di Berlino, in occasione di un dialogo tra credenti e non credenti sull'arte. In quello spazio aleggiava ancora l'imponente presenza di Bertolt Brecht, che sarebbe certo rimasto sconcertato nel vedere un cardinale prendere la parola in quella sala. È un'esperienza che rievoco ora con alcuni suoi versi tra i più celebri, simili a un aforismo, appartenenti a una delle poesie di Svendborg, dal nome della località della Fionia danese, ove egli era riparato con l'avvento del nazismo. C'è poco da aggiungere a questa sferzata contro la guerra e la violenza. Macchine e uomini si assomigliano, sono congegni complicati che possono funzionare e produrre effetti analoghi, pronti a essere guidati, manipolati, usati. Ma c'è proprio quella piccola differenza: l'uomo pensa, è libero e ha una coscienza e può perciò diventare incontrollabile. Da oggetto si rivela soggetto ed è per questo che tutte le dittature, ma anche le pubblicità e i condizionamenti mediatici attuali cercano di appannare o far evaporare proprio la libera scelta umana. Dalla prima pagina della Domenica anche il memorandum del nostro direttore, del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, che parte dal ritorno di Riccardo Muti alla Scala, sul podio della Scala, il ritorno di Muti e Piccoli Segreti di Milano. E Roberto Napoletano, che non è milanese, però insomma ormai è tanti anni che, proprio perché è diventato direttore del Sole 24 Ore, vive a Milano, racconta questo ritorno di Muti alla Scala, che è molto simbolico, e poi anche altri piccoli modi in cui Milano dimostra una grande vitalità in questo momento. La copertina vera e propria però prende spunto da un libro appena pubblicato, Il male primordiale nella Cabala, di Giulio Busi, e appunto fa una lunga recensione di questo libro che è intitolata E Dio creò il mare. In realtà è anche uno spunto per parlare della giornata della memoria, che sarà il 27 gennaio, la giornata della memoria naturalmente per ricordare la Shoah. All'interno della domenicale vi segnalo, a proposito appunto di giorno della memoria e di Shoah, le pagine 30 e 31, dove ci sono recensioni di questi libri, di libri usciti di recente sulla Shoah, e anche un interessantissimo, secondo me, articolo di Michele Battini che si intitola La post verità antisemita, che parte da una considerazione che faceva il filosofo Jean-Paul Sartre. Secondo Sartre, l'odio per gli ebrei si nutre dei nazionalismi nati dalla reazione antimoderna e anti-illuminista. È talmente un mistero l'antisemitismo che appunto vale la pena anche appunto di, per esempio, riesaminare quello che un grande intellettuale come Jean-Paul Sartre pensava. E poi la tredicesima settimana del supplemento domenicale dedicato ai bambini, ai lettori più piccoli, c'è qualcuno che sa leggere. Molto bello l'articolo in prima pagina di uno psicologo, Paolo Legrenzi, intitolato Quando i disegni fanno pensare, e il riferimento è ai libri illustrati, in particolare fiabe come Il segreto degli gnomi, nella serie di libri illustrati di Will Huygen e Rien Portlivet, con i loro disegni ricchissimi e minuziosi, sono utili per l'addestramento all'attenzione spaziale, tra le molte cose, insomma tra i molti motivi per leggere o per comprare ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai bambini che abbiamo intorno dei libri, c'è anche questa. La copertina della lettura è dedicata a Giuseppe Penone, di cui un artista di cui tra l'altro a Roma si sta per aprire una grande mostra di cui parlano molti giornali, al Palazzo della Civiltà a Roma, ed è forse la prima grande mostra da quando il Palazzo della Civiltà è stato riaperto nell'ottobre del 2015, grazie a un intervento di restauro di Fendi. Quindi la copertina di Giuseppe Penone, ma vi segnalo dall'interno un articolo bellissimo di Federico Colonna, secondo me, che prende spunto da questo dizionario compilato da uno psicologo, Tim Lomas, che insegna psicologia alla University of East London, che raccoglie tutte le parole che descrivono la felicità in 26 lingue del mondo. È un progetto in realtà in continua evoluzione, anche grazie a internet, che si intitola The Positive Lexicography Project, raccolta di parole intraducibili che appunto indicano però qualcosa di simile alla felicità. Ve ne leggo alcune. Quella che a me piace di più è Ubuntu. è una parola africana usata in molti paesi africani, che significa umanità verso gli altri, sentirsi parte di una grande comunità. Sono chi sono in virtù di ciò che tutti siamo. Ecco l'etica Ubuntu, che ha ispirato anche il nome e la filosofia dell'omonimo sistema operativo basato su Linux, pensate, con l'obiettivo di portare l'idea di condivisione anche nel mondo del software. Chi ha l'Ubuntu, infatti, non può perseguire solo il vantaggio personale, lo ha spiegato l'attivista e arcivescovo sudafricano Desmond Tutu. Una persona con l'Ubuntu è aperta e disponibile. Quando fai del bene si diffonde, è per tutta l'umanità. Il supplemento della Repubblica Robinson, che è arrivato all'8º numero, è una cosa abbastanza recente. È dedicato a un inedito di Zygmunt Bauman, il grande filosofo e sociologo scomparso all'inizio di quest'anno. Si intitola La nostra memoria, un saggio inedito in cui il sociologo spiega come la società e gli individui ricordano la loro storia. E anche in questo caso, naturalmente, c'è un riferimento al 27 gennaio, appunto il giorno della memoria, per non dimenticare mai la Shoah. Ultimissima segnalazione, vi avevo parlato della mostra di Giuseppe Penone su Macro, il supplemento del Messaggero. La copertina è proprio dedicata a questa. Basta essere bambini per capire l'arte, è una conversazione, un'intervista di Simona Antonucci con l'artista. Questa mostra appunto si apre a Palazzo della Civiltà e tra l'altro ci sono due le mostre in realtà, perché quella grande appunto è Palazzo della Civiltà, poi ce n'è un'altra alla Galleria Gagosian di Roma, per vedere un po', un'occasione per vedere tutta l'opera di questo artista di Torino. Purtroppo non ho tempo per altre segnalazioni, ma credetemi, oggi i giornali, come sempre del resto, ma in particolare la domenica, sono ricchi di spunti e di argomenti, e quindi vi auguro una buona lettura, ma soprattutto vi auguro una buona domenica. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, che mi sono dimenticata di ringraziare domenica scorsa, e ancora appunto una buona giornata da Giulia Crivelli.